Le 13 e un minuto. GR24, il sole 24 ore, edizione extra large. Una famiglia su cinque ha difficoltà economiche, secondo il rapporto annuale dell'Istat, e la crisi colpisce soprattutto le persone fra i 35 e i 54 anni. Ore decisive per l'acquisizione di Opel, i vertici di Fiat a colloquio con il cancelliere Merkel e il ministro dell'economia tedesco. Domani la decisione di Berlino, Intesa San Paolo dice pronti a dare supporto finanziario al Lingotto. Mentana torni a condurre Matrix, il giudice del lavoro ordina il reintegro del giornalista a Canale 5. Nuova sfida della Corea del Nord, anche oggi lanciati due missili a corto raggio dopo il test nucleare di ieri. È falsa una pensione di invalidità su 10, primo bilancio dell'Inps dopo due mesi di controlli. Una Roma blindata si prepara alle finali di Champions League di domani. Una buona giornata da Simone Spezia ed Alessandra Tedesco. Benvenuti a questa nuova edizione del GR Extra Large, che apriamo parlando del rapporto annuale dell'Istat. È un rapporto che dà un po' una fotografia di quelli che sono i cambiamenti sociali ma anche economici degli italiani. Quindi partiamo proprio dagli aspetti economici. Eh sì, perché più di una famiglia italiana su cinque ha difficoltà di vario genere, dal non poter affrontare spese impreviste fino a non avere i soldi per pagare l'affitto e le bollette. Ma facciamo il punto su questo rapporto Istat in diretta da Roma, Vincenzo Miglietti. Sì, buongiorno. Nessuna previsione da parte dell'Istat, ma una fotografia di quanto accaduto nel 2008. È un paese di fatto l'Italia che mostra, secondo il rapporto presentato questa mattina qui a Montecitorio, luci ed ombre. Il capitolo famiglie, una su cinque ha difficoltà economiche crescenti, il 6,3% non riesce ad arrivare a fine mese, in generale il 22% delle famiglie italiane sarebbe economicamente vulnerabile. Dall'altra parte vi sono oltre 10 milioni di famiglie che non hanno avuto alcun effetto negativo dalla congiuntura internazionale. Il fronte lavoro, per la prima volta dal 95, segnala l'Istat, la crescita degli occupati è risultata inferiore a quella dei disoccupati. La figura tipica di chi perde il lavoro è quella di un uomo di età compresa tra i 35 e i 54 anni, residente nelle regioni centro-settentrionali, con un livello di istruzione non superiore alla licenza secondaria. Il mezzogiorno poi, il sud, continua a mostrare segni di sofferenza, anche se non mancano gli esempi di eccellenza. Tra le imprese italiane le più colpite sono quelle piccole, esposte ai mercati esteri. Infine l'immigrazione, per una maggiore integrazione, conclude l'Istat, servono anche politiche mirate e territoriali. E da Roma è tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo, il nostro Vincenzo Miglietta, che tra l'altro ha intervistato il presidente dell'Istat, Luigi Biggeri. Presidente, come esce l'Italia dal 2008? Come esce dal 2008? Sì. Dal 2008, ve l'ho detto prima, i segni... molti segni sono negativi, non nel mercato del lavoro, nel quale mercato del lavoro in fin dei conti l'uscita del 2008 è abbastanza buona, anche se l'ultima parte è stata ha visto aumentare la disoccupazione, però nel complesso la situazione del mercato del lavoro alla fine del 2008 è buona. Si tratta di vedere come, di monitorare come ora stanno andando le cose. Dal punto di vista della produzione e dell'esportazione abbiamo visto che c'è stato addirittura proprio uno shock forte verso la fine del 2008, ma questo shock forte ha colpito imprese e produzioni che poi hanno mantenuto il loro livello, nel senso che dopo questo shock il livello di produzione e di vendita all'estero di questo gruppo di imprese è rimasto lo stesso, cioè non è riaumentato ancora, forse ora sta riaumentando un po', però si è fermato. Mentre invece c'erano e ci sono altri gruppi di imprese che già prima della crisi finanziaria, quindi quando c'erano stati gli aumenti dei prezzi del petrolio, quando c'erano stati gli aumenti dei prezzi delle materie prime, avevano già visto difficoltà, avevano incontrato difficoltà sia nella produzione che nell'esportazione. È chiaro che quelle imprese si trovano maggiormente in difficoltà, mentre quelle che avevano razionalizzato, che si erano, preparati quasi, non perché pensassero che dovesse arrivare una crisi, ma erano preparati perché c'erano gli aumenti dei prezzi a livello internazionale, queste imprese reagiscono meglio. Una famiglia su cinque è in crisi, cosa significa? Una famiglia su cinque ha la possibilità di essere vulnerata, cioè in realtà sono solo 5%, quindi una famiglia su 20 quelli che hanno davvero forti disagi economici. Però una famiglia su 5, dopo il 5% c'è un altro 10-15% di famiglie che in relazione alla fonte di reddito che hanno possono subire disagi economici. È certo che se la fonte di reddito è una fonte di reddito che corrisponde a due percettori di reddito nell'ambito della famiglia, la situazione è migliore. Se è un solo percettore di reddito e questo percettore di reddito rischia magari un licenziamento o una messa a tempo parziale, è ovvio che il rischio di vulnerabilità è maggiore. Che ruolo gioca, Presidente, l'immigrazione nell'evoluzione del nostro Paese? È un elemento fondamentale, perché l'immigrazione e così tanti immigrati incidono sia sull'aspetto sociale e quindi sulla vita sociale di relazioni, sia sulla vita economica, perché oramai sono tanti gli occupati, sia sulla vita organizzativa delle istituzioni in campo scolastico, in campo sanitario. Quindi è per questo che gli abbiamo dato tanto peso, e ne avranno sempre di più, perché se oltre 500.000 bambini sono immigrati, sono nati in Italia, è evidente che se si continua così fra qualche anno saranno qualche milione i bambini nati in Italia, e sono quelli che andranno a scuola, non dico in maggioranza rispetto ai bambini italiani, ma certamente molto vicini. E allora è ovvio che bisogna occuparsi di questo, perché le esigenze devono essere garantite anche a loro, la Costituzione le garantisce a tutti i cittadini, non solo a cittadini italiani in senso stretto, anche se vorrei vedere uno che è nato in Italia, che frequenta le scuole con i nostri nipoti o con i nostri figli, a seconda dell'età che abbiamo, se non si può considerare un cittadino italiano a tutti gli effetti. E questo era Luigi Biggeri, presidente dell'Istat, intervistato da Vincenzo Miglietta. Del resto, di temi sociali come appunto il problema della disoccupazione e dell'immigrazione sta parlando nelle ultime settimane, sta intervenendo più volte la Chiesa. Sì, prima il Papa, che da Cassino ha chiesto forti interventi a sostegno dell'occupazione, poi la Conferenza Episcopale Italiana, che ieri con il Cardinal Bagnasco ha parlato di lavoratori licenziati come fossero zavorra. Katia Caramelli ne ha parlato con il sociologo Luca Diotallevi, vicepresidente del comitato organizzatore delle Settimane Sociali, un appuntamento il prossimo nel 2010 che offre al mondo cattolico l'occasione di riflettere sulle emergenze del paese. L'attenzione della Chiesa alla questione sociale è vecchia di 2000 anni e nell'accezione moderna del termine è vecchia di oltre 150 anni. Ancora abbiamo un testo molto vicino a noi, la Centesimus Annus, di grande sofisticatezza, elaborazione e attenzione. Io semmai sottolineerei un altro aspetto: la Chiesa italiana in modo particolare vive spalla a spalla con la gente e ci dà una sensazione di come questi problemi siano avvertiti e drammatici. In un momento in cui il dibattito pubblico, soprattutto ahimè quello politico, tende a sfuggire verso marginalità e verso pruderie, la Chiesa che vive in mezzo alla gente ci ripropone le questioni che le persone avvertono con forza, senza la pretesa di dare soluzioni, ma con una grande sensibilità. C'è comunque un susseguirsi incessante proprio di questi ultimi giorni su alcuni temi. La situazione è grave e soprattutto il rischio forte è che in una materia di questo genere prevalga lo schieramento sull'oggetto. Allora il grande sforzo che la Chiesa in questo momento sta facendo è quello di tenere il dibattito per quanto possibile vicino alle cose. E allora c'è un'insistenza forte. Un altro tema è quello dell'immigrazione. Anche qui si è sentito il bisogno di ribadire con forza alcuni concetti da sempre sostenuti, chiaramente il rispetto della dignità, il diritto di asilo. Via mare giunge in Italia una percentuale molto bassa di immigrazione clandestina e di immigrazione potenzialmente rischiosa per l'ordine pubblico. Concentrarci solo su quel provvedimento e solo su quel fenomeno è un modo per fare televisione, non per fare politica. Ed era il sociologo Luca Diotallevi, vicepresidente del comitato organizzatore delle Settimane Sociali, intervistato dalla nostra Katia Caramelli. Continuiamo a parlare di economia, però su tutt'altro fronte, quello di Fiat, Alessandra. Fiat e di Opel, perché ricordiamo che è ancora aperta la partita per l'acquisizione di Opel e sono ore decisive con i tre gruppi in gara, fra cui appunto il Lingotto, per acquisire la casa automobilistica tedesca controllata attualmente da General Motors. Oggi i vertici di Fiat sono a Berlino. È appena terminato l'incontro tra l'amministratore delegato Sergio Marchionne e la cancelliera tedesca Angela Merkel. È previsto anche un incontro con il ministro dell'economia. A Berlino c'è anche il vicepresidente di Fiat John Elkann. Una decisione da parte del governo tedesco è attesa per domani. In collegamento da Francoforte, Beda Romano. Allora Beda, che cosa ci si aspetta da questi incontri e, ripetiamolo, quanto peserà il parere del governo tedesco? Ma è difficile capire che cosa aspettarsi da questi incontri. Prima di tutto dobbiamo chiarire che nel contempo il governo tedesco e l'establishment politico tedesco sta tenendo degli incontri anche con gli altri concorrenti in lizza per acquistare Opel, in altre parole la società austro-canadese Magna e il fondo di private equity Ripplewood. Quindi non è solo la Fiat che sta incontrando il vertice tedesco, anche gli altri stanno facendo altrettanto. Il tentativo è quello di aggiornare e modificare in corsa il piano per tentare di convincere l'establishment politico tedesco a scegliere l'offerta, la propria offerta. Perché il governo tedesco è stato tirato in ballo in questa vicenda? Beh, fondamentalmente perché General Motors dovrà probabilmente entro la fine del mese presentare istanza di fallimento e Opel è una filiale di General Motors che avrà bisogno di garanzie creditizie pubbliche nel momento in cui la società americana presenta ufficialmente istanza di fallimento. Ecco quindi che il governo deve dare il suo benestare al partner deciso, che sia Magna, Fiat o Ripplewood, deve dare garanzie creditizie a questa nuova società. La decisione definitiva sul partner spetta General Motors, ma è evidente che il governo può in questa circostanza influenzare la decisione. Vedremo dunque che cosa succederà, quindi appunto domani giornata decisiva e torneremo ovviamente a parlarne. Tra l'altro ci sono le dichiarazioni di poco fa di Corrado Passera, amministratore delegato di Intesa San Paolo, che dice: siamo pronti a dare supporto finanziario al progetto della Fiat, insomma nel caso si concretizzasse appunto l'acquisizione di Opel. Enrico Mentana deve tornare a condurre Matrix. Questo è quanto sostiene il giudice del lavoro del Tribunale di Roma, che ha ritenuto illegittimo il licenziamento da Canale 5. Ci aggiorna in diretta da Roma Andrea Viale. Andrea. Sì, è così Alessandra, questa mattina il giudice del Tribunale del Lavoro di Roma Guido Rosa ha dato ragione ad Enrico Mentana, ha accolto il suo ricorso, ha dichiarato illegittimo il suo licenziamento e ne ha disposto il reintegro alla guida di Matrix, il programma di approfondimento giornalistico che, lo ricordiamo, era realizzato e condotto proprio da Mentana su Canale 5. Il giudice ha anche condannato l'azienda al pagamento dei danni. Il divorzio con Mediaset, lo ricordiamo, era avvenuto a febbraio dopo le aspre critiche di Mentana alla decisione dell'azienda di non modificare il suo palinsesto, il palinsesto di Canale 5, nonostante la morte di Eluana Englaro. Al momento il giornalista ha preferito non commentare la sentenza del giudice del lavoro, lo ha fatto invece Mediaset, che in una nota l'ha definita sorprendente e, in attesa di conoscerne le motivazioni, ha già anticipato che ricorrerà in appello. Per il momento è tutto. E grazie Andrea Viali per questi aggiornamenti. Adesso è il momento di affrontare un tema, quello di spreco di denaro pubblico, insomma, perché i controlli dell'INPS sono in corso da un paio di mesi e si è scoperto che una pensione di invalidità su 10 di quelle controllate finora naturalmente è falsa. Buongiorno ad Antonio Mastrapasqua, presidente dell'INPS. Buongiorno a tutti. Allora, quali sono le regioni, insomma, dove avete trovato più casi di truffa, più pensioni di invalidità false? Ma le regioni dove c'è la percentuale più alta sono le regioni dove c'è stata una maggiore, diciamo, generosità nel concedere le pensioni, quindi sono la Campania, la Sardegna, la Calabria, la Sicilia. In queste regioni noi ci siamo concentrati di più sui controlli e le percentuali sono infatti quasi vicine al 20% di pensioni revocate. Quindi una percentuale così alta perché avete fatto più controlli, quindi in proporzione la stessa percentuale troveremo nelle altre regioni o no? O effettivamente c'è una concentrazione maggiore? C'è una concentrazione maggiore, però diciamo che l'attesa che ne abbiamo sul campione a fine anno è di più del 10%, mantenendo il risparmio che ci siamo impegnati ad avere di circa 100 milioni di euro l'anno, quindi una cifra incredibile, molto alta. Parecchio. Presidente, diamo anche i virtuosi, perché non parliamo sempre di quelli che sono messi male. Quali sono le regioni migliori su questo fronte? Abbiamo la Lombardia, abbiamo alcune regioni del nord, la Val d'Aosta, abbiamo le Marche, insomma, ci sono regioni dove per adesso la percentuale è molto bassa, però c'è anche una macchia di leopardo nell'inizio delle verifiche, quindi essendo iniziate solamente da 2 mesi scontiamo anche un po' di rallentamento nel fornire da parte delle ASL fascicoli per fare poi le nostre ulteriori verifiche. Fino ad ora quante pensioni di invalidità avete revocato e se ci sono dei casi un po' emblematici, insomma? Le pensioni revocate sono già più di 10.000, casi emblematici non ne abbiamo se non quelle nel momento in cui viene revocato, significa che non era vero il presupposto per il quale era stato elargito nel passato. Io ho piacere a dire una cosa, che questo qui non vuole essere solamente un momento per scovare i finti invalidi, ma io ho preso un impegno con il governo e con il Parlamento di proporre tra poche settimane o massimo un mese una proposta anche per revisionare questo sistema, perché altrimenti continuare a inseguire questa cosa è anche un aspetto triste della vicenda, soprattutto per chi ha veramente bisogno. Certamente, Presidente. Ci spieghi un po', a livello di casi, sono più frequenti i casi, diciamo così, di manica larga e quindi magari di concessioni di invalidità maggiori rispetto all'invalidità reale, o i casi di veri e propri finti invalidi? Tutte e due. Sicuramente le ASL sono generose e molto spesso sono generose con chi non è assolutamente invalido, quindi noi riscontriamo ambedue le fattispecie e revochiamo immediatamente. Questo, ahimè, ci porterà un contenzioso. Non so se gli telespettatori, gli autoascoltatori sanno che noi abbiamo quasi 500.000 cause di persone che nel momento in cui sono state negli anni da noi revocate chiedono invece di poter avere il loro presunto diritto, quindi è un cane che si morde la coda, e per questo che io mi sono impegnato per fare anche qualche proposta per sanare anche questo mondo assurdo per chi veramente ha bisogno. I controlli termineranno entro quest'anno, entro il 2009? Noi siamo impegnati a fare 200.000 controlli entro il 31 dicembre, adesso stiamo aspettando i dati dell'Agenzia delle Entrate, faremo anche i controlli reddituali, stiamo aspettando i dati della motorizzazione per fare i controlli di chi a noi risulta avere una menomazione perché gli limita la possibilità di guida e che invece ha la patente, quindi abbiamo anche un'intelligence sulle banche dati per evitare solamente di fare azioni, diciamo, di visite personali, ma anche sulla base di dati riscontrabili dalle banche dati. Grazie ad Antonio Mastrapasqua, presidente dell'INPS, per essere stato con noi. Buona giornata. Grazie a tutti, arrivederci. Forse vi sarete resi conto che non è andata in onda la viabilità, ma non è stata una nostra dimenticanza. Oggi l'appuntamento appunto con le informazioni per chi viaggia non va in onda a causa di un'assemblea sindacale della redazione Meteo e Traffico. E ora andiamo in Sicilia per parlare di politica, perché ieri il presidente della regione Raffaele Lombardo, lo sapete, ha azzerato la giunta di centrodestra per troppa conflittualità interna. Oggi ha fatto sapere che non esclude la possibilità che si possa arrivare ad elezioni anticipate. In un anno all'interno della maggioranza di centrodestra siciliana avevano litigato su tutto, fin dal momento delle nomine degli assessori fatte in solitudine da Raffaele Lombardo, per passare alla riforma della sanità, alle nomine di superburocrati regionali, alla finanziaria e financo sul mancato invito di esponenti politici non vicini a Lombardo alla cena con il presidente della Repubblica Napolitano. Adesso in Sicilia, dopo che il presidente Lombardo ieri ha azzerato la sua giunta, si attendono le nuove mosse del leader dell'MPA, che ha promesso entro 48 ore un nuovo governo, che pare possa essere realizzato con una buona dose di tecnici e persone vicine a sindacati e mondo industriale e all'idea di autonomia dell'isola. L'ipotesi di un ritorno al voto in Sicilia sembra lontana, ma non è esclusa. Proprio oggi, in maniera chiara, Lombardo ha sostenuto che difficilmente i deputati regionali della sua maggioranza si dimetteranno per farlo cadere, non fosse altro che in tal modo andrebbero a casa anche loro. Lombardo non ha quindi escluso categoricamente l'ipotesi di sue dimissioni. Vado avanti, ha detto, chiarendo poi in maniera sibillina che se dovesse essere costretto a fare un passo indietro si dimetterebbe e si tornerebbe a votare. Nel pomeriggio, dopo essere stato in Puglia e a Roma, Lombardo sarà a Palermo per partecipare ad una manifestazione elettorale per le europee. Qualcosa di più chiaro potrebbe emergere. Giampiero Casagni, GR24, Sole 24 Ore, Palermo. Dalla giunta regionale siciliana veniamo al Consiglio Comunale di Milano, che ha deciso di cancellare la commissione antimafia che avrebbe dovuto vigilare sul rischio di infiltrazioni in vista dell'Expo 2015. Vita breve e tormentata per la Commissione Antimafia sull'Expo a Milano. A 3 mesi dalla sua istituzione e dopo un paio di sedute infuocate, l'organismo muore in mezzo alle polemiche. È passata ieri in Consiglio Comunale la delibera voluta dal centrodestra per cancellare l'organismo che avrebbe dovuto vigilare sul rischio di infiltrazioni mafiose negli appalti per le opere da realizzare in vista del 2015. Il centrosinistra, che ha abbandonato l'aula dopo il voto per protesta, parla di un insulto, mentre la maggioranza motiva la decisione con il rifiuto di partecipare alla commissione espresso da prefetto, questore e magistrati. L'organismo è illegittimo, non potrà avere potere di indagine, aveva sentenziato il prefetto Lombardi. Senza contributi esterni la commissione è inutile, ha spiegato il PDL. La commissione muore dunque, non così l'allarme infiltrazioni. Milano è la vera capitale delle cosche, ha ricordato più volte il sostituto procuratore della Direzione Nazionale Antimafia Vincenzo Macri, e gli ultimi episodi di cronaca lo testimoniano. L'Expo e il crimine organizzato saranno lontanissimi, assicura però Lucio Stanca, amministratore delegato della SOGE, la società di gestione dell'evento. Faremo di tutto per evitare qualsiasi connessione. Maria Luisa Pezzali, GR24, Il Sole 24 Ore. E sempre in tema di mafia, oggi a Firenze le celebrazioni in ricordo della strage dei georgofili avvenuta nella notte fra il 26 e il 27 maggio del 93. In diretta da Firenze, Ubaldo Cianciulli. Sì, buongiorno. Oggi e domani, una o due giorni per ricordare le vittime, le cinque vittime, cinque morti della strage, la strage dei georgofili, ma anche tutte le vittime di mafia. Se ne parla da stamani in un convegno e all'auditorium della Regione Toscana con Pietro Grasso, procuratore nazionale antimafia, Antonio Girone, direttore della Direzione Investigativa Antimafia, i ragazzi di alcuni istituti scolastici, Giuseppe Nicolosi, Pierluigi Vigna, che insieme a Gabriele Chelazzi condussero le indagini su Cosa Nostra, attrice materiale della strage dei georgofili. Partecipa anche Giovanna Maggiani Kelly dell'Associazione Familiari Vittime di Via dei Georgofili, madre di una ragazza rimasta ferita durante l'esplosione e che vide bruciare vivo il proprio fidanzato. Pietro Grasso è intervenuto questa mattina qui a Firenze dicendo che lui veniva dal ricordo delle stragi di Capaci, di Falcone, dice che sono ferite non ancora rimarginate, anche perché secondo noi non tutto è stato accertato. Continuiamo su questa strada, ha detto Pietro Grasso, ritenendo che non c'è mai nulla di completamente definito. Le indagini sono come gli esami, ha detto Grasso, non finiscono mai. Sono state accertate le responsabilità degli esecutori materiali e quelle dei mandanti interni a Cosa Nostra, però rimane ancora qualche aspetto poco chiaro di una strategia che si inseriva in un contesto, in un momento assolutamente particolare. La commemorazione proseguirà anche questa notte, infatti all'1.04, nel momento in cui esplose la bomba in via dei Georgofili tra Palazzo Vecchio e la Galleria degli Uffizi, verrà deposta una corona di alloro sul luogo dell'attentato, nel quale rimasero vittime, morirono, ricordiamo, lo studente di architettura Dario Capolicchio e l'intera famiglia Nencioni, Angela, Nadia, Caterina e Fabrizio. Domani mattina una deposizione di un cuscino di rose sulla tomba della famiglia Nencioni al cimitero della Romola, mentre nel cimitero di Sarzanello a Sarzana una deposizione di un cuscino di fiori sulla tomba di Dario Capolicchio. Grazie Ubaldo Cianciulli per questi approfonditi aggiornamenti. La Procura di Genova sta indagando su quanto sarebbe accaduto nel carcere di Ponte Decimo. Alcuni agenti penitenziari avrebbero chiesto prestazioni sessuali alle detenute in cambio di favori. Al centro dell'indagine ci sarebbe anche un aborto subito da una carcerata. Sarebbero già 4 le persone iscritte nel registro degli indagati. Ma quanto sono diffusi questi abusi nelle carceri? Valentina Furlanetto l'ha chiesto a Patrizio Gonnelli, presidente di Antigone, nell'associazione che ogni anno redige un rapporto sullo stato delle carceri in Italia. Ci sono storie sia nei confronti di donne sia nei confronti di uomini. Di abusi? Sì. Ci sono state storie che hanno riguardato a volte direttrici, a volte personale di polizia, a volte personale medico, a volte poliziotti ovviamente. Casi che hanno riguardato il carcere di Brindisi, di Pozzuoli. Come sono andate a finire queste indagini? In alcuni casi con condanne e in alcuni casi con, diciamo, assoluzioni. Perché poi in alcuni casi è indimostrata l'accusa di violenza. In che senso? Come dire, laddove non ci sia la costrizione. Ma si tratta spesso di abusi veri e propri o di situazioni più opache? Sono più situazioni opache. In cui il detenuto o la detenuta sono consenzienti magari in cambio di qualche favore. Che ne so, per esempio, di stare un po' più tranquillo in un posto meno affollato, oppure per non avere rogne, oppure perché non c'è alternativa sessuale. Esiste questo rischio, non è il primo dei problemi che affligge le carceri italiane. Qual è il primo? La vita dura, determinata dal sovraffollamento. Cambiamo decisamente argomento. È partito il conto alla rovescia per la finale di Champions League, Manchester-Barcellona, che si giocherà domani sera all'Olimpico di Roma. Arrivano in continuazione, le strade della capitale progressivamente si colorano delle loro bandiere. 67.000, tanti sono i tifosi che domani sera animeranno uno stadio olimpico da tutto esaurito. La finale di Champions League 2009, Manchester United-Barcellona, darà spettacolo, ma a poche ore dalla gara si parla soprattutto di ordine e sicurezza. La prefettura ha assicurato una presenza capillare delle forze dell'ordine, 5.000 agenti impegnati, il monitoraggio del centro storico con il supporto della polizia spagnola e inglese, percorsi separati verso lo stadio per le due tifoserie. A destare preoccupazione sono soprattutto gli oltre 5.000 sostenitori del Manchester che arriveranno in città nelle prossime ore senza biglietto. Il prefetto Giuseppe Pecoraro ha lanciato un messaggio. Attenzione, ha detto, qualsiasi tagliando che viene venduto in questi giorni è sicuramente falso. Le misure eccezionali non riguardano soltanto squadre ultra, ma coinvolgono anche i cittadini. Dalle 16 di domani non si circolerà e non si parcheggerà in tutta la zona nei dintorni dello stadio, da Ponte Milvio a Piazzale Clodio. Già da ieri sera è vietata la vendita di bevande alcoliche all'interno della cosiddetta zona rossa, i municipi 1, 2, 3, 16 e 20. I divieti saranno poi estesi agli aeroporti, alle stazioni ferroviarie e metropolitane e al porto di Civitavecchia. E suona quasi come un paradosso il fatto che tra gli sponsor del match ci sia proprio una famosa marca di birra. I tifosi sugli spalti l'avranno sempre sotto gli occhi, ma dovranno accontentarsi di una fresca bevanda analcolica. Micaela Nasca, GR24, Il Sole 24 Ore. E dal calcio passiamo al ciclismo. Oggi per il Giro d'Italia è un giorno di stop. Dario Ceccarelli, approfittiamo della pausa per fare il punto della situazione e anche per tornare ad accennare della tappa di ieri, che è stata decisamente una bella tappa, come ci si aspettava. Sì, buongiorno a tutti. Oggi è un giorno un po' particolare per il Giro d'Italia. Adesso siamo all'Aquila, siamo a Pettino, che è una piccola frazione alla periferia dell'Aquila, dove in questo momento è arrivata una rappresentanza della carovana, quindi con alcuni corridori per ogni squadra e campioni del passato e del presente. Sono fatti molti anche del passato, da Gianni Motta a Paolo Bettini, cioè il commissario tecnico nazionale ballerino. È una giornata particolare perché intanto va bene questo scenario, è veramente suggestivo perché c'è un caldo africano ma ci sono anche le montagne innevate, quindi sembra di vedere due mondi paralleli. E poi perché c'è questo abbraccio tra il Giro e delle persone che vivono in questo campo, sono circa 200 sotto questo sole così torrido che certo non fa bene a vivere in questo modo. Ed è un momento così di gioia che, come tutte le cose, il Giro passa e poi lascia una realtà che certo non è festosa, che però porta un momento di serenità. GR Extra Large, queste le principali notizie della giornata. La crisi colpisce soprattutto le persone fra i 35 e i 54 anni, dice l'Istat nel suo rapporto annuale, dal quale emerge che una famiglia su 5 ha difficoltà economiche. Ore decisive per l'acquisizione di Opel, si è concluso il colloquio fra Marchionne e la Merkel, domani la decisione di Berlino, Intesa San Paolo, pronti a dare supporto finanziario all'Ingotto. Mentana torni a condurre Matrix. Il giudice del lavoro ordina il reintegro del giornalista a Canale 5. Nuova sfida della Corea del Nord. Anche oggi lanciati due missili a corto raggio dopo il test nucleare di ieri. È falsa una pensione di invalidità su 10. Primo bilancio dell'INPS dopo due mesi di controlli. Una Roma blindata si prepara alla finale di Champions League di domani. In apertura di questa seconda parte andiamo innanzitutto a Roma, all'Assemblea Nazionale di Confcooperative, dove ha parlato questa mattina il ministro dell'Economia Giulio Tremonti. E allora, per sapere che cosa ha detto Tremonti, ci colleghiamo con Paola Cavadi, che per noi sta seguendo appunto questi lavori. Paola. Sì, buongiorno. Una nuova stoccata alle banche. Il ministro dell'Economia Tremonti, ospite oggi dell'Assemblea di Confcooperative a Roma, è tornato a prendersela con gli istituti di credito, gli stessi a cui il ministro rimprovera ormai da settimane un uso timido dei Tremonti Bond in favore del credito alle imprese. Secondo il titolare dell'Economia, molti dati indicano un ritorno della finanza fai da te, della finanza fine a se stessa, chiedo scusa. Perché? Perché secondo il ministro, a fronte di un aumento della raccolta delle banche, gli impieghi finanziari superano quelli alle imprese, segno che le banche si stanno forse di nuovo allontanando dall'economia reale. Nella crisi tuttavia l'Italia non è in una posizione tragica, ha detto il ministro, la situazione è difficile ma ci sono segnali positivi, primo fra tutti il dato sul deficit. L'Italia è l'unico paese in Europa a stare sotto il 3%, ha detto Tremonti. E poi ancora, ultimamente sono diminuite le richieste di cassa integrazione. Infine, comunque, secondo Tremonti, l'Italia continua ad essere il secondo paese manifatturiero al mondo. a margine dell'assemblea di oggi, sui dati diffusi dall'Istat questa mattina è intervenuto invece il ministro del welfare Sacconi. L'aiuto ai capifamiglia, ha detto il ministro, i più esposti secondo l'Istat al rischio di disoccupazione, sono da sempre la priorità del governo. E da Roma è tutto, a voi studio. E grazie Paola Cavadi per questi aggiornamenti. Il ministro dell'economia ha parlato di credito alle imprese e noi parliamo di un argomento in qualche modo collegato. Sì, perché c'è una vicenda fiscale un po' forse complicata che però in tempi di dichiarazione dei redditi potrebbe portare parecchi problemi agli imprenditori. Si chiama tecnicamente indeducibilità degli interessi passivi e potrebbe condurre le aziende a pagare molte più tasse, fino al doppio. In studio con noi c'è il collega del Sole 24 Ore Mauro Meazza, che guida le pagine di Norme e Tributi. Mauro, aiutaci a fare chiarezza. Sì, in realtà il problema è noto, diciamo, al settore, agli addetti ai lavori, quindi ai professionisti, già da parecchio tempo. Per dirla molto semplicemente, noi abbiamo sempre avuto da molti anni delle norme che impediscono l'eccesso di indebitamento da parte delle imprese, cioè in qualche modo lo puniscono o cercano di non incentivarlo. Adesso abbiamo questa nuova norma finalizzata appunto a evitare l'eccesso di indebitamento, che dice che bisogna che il fisco riconoscerà come utilizzabile solo una certa quota degli interessi passivi pagati per indebitarsi. Quindi, per parlare molto chiaro, si prende il risultato dell'impresa, quanto costa produrre, si prendono gli incassi, quanto si ricava dalla produzione, si prende il 30% di questa differenza e quello lì è il massimo che lo sconto del fisco può dare. Quindi se uno è indebitato maggiormente avrà una quota che quest'anno non può utilizzare, non gli viene riconosciuta dal fisco. Cosa significa in poche parole? Significa che c'è una base imponibile più ampia, c'è uno sconto inferiore e quindi si pagano più tasse. E la vicenda che è un paradosso in un momento di crisi in cui molte aziende fanno fatica appunto ad avere più introiti, insomma. Esattamente, ma infatti proprio per questo già dall'autunno scorso, quando è cominciata la crisi finanziaria, si sono avute le prime avvisaglie delle sue ricadute economiche. Era stato segnalato dai commercialisti, dai professionisti, avevamo ripreso anche sul Sole 24 Ore questo problema. La regola può anche essere condivisibile e può andare benissimo in una fase di economia, diciamo, normale, in cui l'azienda produce, eviterà di indebitarsi troppo perché è in condizioni di scegliere. In questo momento per un'azienda è più difficile scegliere se indebitarsi o non indebitarsi, perché deve reagire a delle condizioni di mercato molto più difficili, quindi il debito diventa anche una necessità. La beffa è: sono costretto a indebitarmi, ma proprio nel momento in cui sono costretto a indebitarmi il fisco mi riduce il suo sconto, e questo diventa effettivamente paradossale. E non solo, come dicevate voi, aumenta il costo da pagare. Noi avevamo fatto anche degli esempi sul 24 Ore qualche settimana fa, e ad esempio, non so, rispetto a un IRES a un 41.000 euro di IRES, partendo da un valore della produzione di 10 milioni, si arrivava a 20.000 euro in più, cioè ad avere, non dico un raddoppio, ma quasi della quota di imposte pagate. In un altro esempio avevamo fatto il caso, sono numeri ovviamente fittizi, di un'impresa che senza questa regola avrebbe potuto far valere i suoi debiti, gli interessi passivi, e chiudere quindi in perdita dal punto di vista del fisco, quindi non dare niente al fisco. Con la nuova regola invece deve comunque pagare delle imposte, e questo ovviamente, come dicevamo, diventa paradossale. In una fase come questa diventa paradossale tutto questo, naturalmente, sempre che le imprese riescano a trovare credito sul mercato. Comunque noi abbiamo sollevato più volte questo problema, ma voglio dire, noi significa abbiamo raccolto le sollecitazioni dei commercialisti, degli specialisti fiscali, eccetera. Però si è ritenuto di non intervenire su questo tipo di limite. Bisogna tenere presente che il momento di difficoltà è un momento di difficoltà per le imprese, ma anche per i conti dello Stato. Quindi l'idea di rinunciare in qualche modo a un gettito diventa difficile. Cosa si dovrebbe fare? Banalmente, Oggi questo tetto di deducibilità è pari a 30%, bisognerebbe alzarlo, metterlo un po' più in alto per dare un po' di respiro. Io non credo che a questo punto ci siano margini per intervenire. Purtroppo, mi dispiace dirlo, ma credo che via via che gli imprenditori vanno a fare i conti per il modello unico, si troveranno sempre più frequentemente di fronte a questa circostanza. Grazie Mauro Meazza, responsabile delle pagine di Norme e Tributi del Sole 24 Ore. E la crisi continua ad essere al centro anche delle attenzioni dei quotidiani internazionali. Giulia Crivelli, c'è anche un impatto sul consumo dei vini, ci sembra di capire. Sì, buongiorno. C'è un lungo articolo sul New Yorker. Sentite passare una moto perché sono in giro per Milano. Un lungo articolo sul New Yorker che si chiama Drink Up, cioè bevitelo, ed è la storia di questo Fred Francia, che è un americano che ha una grande azienda di vini che si chiama Bronco, quindi chiaramente sia il cognome che il nome dell'azienda indicano origini italiane. Ha deciso che nessuna delle sue bottiglie di vino deve costare più di $10. Questo naturalmente significa, uno, che i vini francesi e i vini italiani che vengono importati negli Stati Uniti ovviamente soffriranno di un concorrente del genere. Due, che la mossa è dovuta al fatto che con la crisi si taglia anche sul consumo di vini. Sul New Yorker e sul New York Times c'è addirittura un blog dove ognuno può segnalare le misure di emergenza per far fronte alla crisi. Tra queste c'è anche appunto cercare vini più cheap come quelli del signor Franzia. Giulia, parliamo invece della Polaroid. Io ricordo tempo fa si diceva è già uscita dal mercato, invece insomma adesso scopro che rischia di uscire dal mercato. Qual è la situazione? Ma quello della Polaroid secondo me è una storia interessantissima, nel senso che tutti noi la vediamo un po' come un metodo del passato. In realtà, per esempio, se si va dai fotografi, quelli che usano le macchine digitali o quelli che lavorano con la moda, o si va nel backstage di una sfilata, si scopre che in realtà le Polaroid sono ancora usatissime. Il problema è che quasi la pellicola non si trova più e gli apparecchi ovviamente non si fanno più, quindi chi ce l'ha è fortunato e chi non ne ha mai avuta una probabilmente non se la potrà comprare. Adesso però degli scienziati olandesi hanno suggerito alla Kodak alla Polaroid che si possa comunque usare la tecnologia per fare lo stesso tipo di istantanea, quindi una pellicola diversa, meno costosa, macchine nuove però con la stessa idea, cioè faccio una foto e una macchinetta me la stampa subito, naturalmente in un modo diverso, magari laser, però con quell'immediatezza che dà la Polaroid, che serve per esempio appunto nei backstage delle sfilate, si attaccano queste Polaroid ai vestiti per far vedere qual è la modella che li indosserà. Giulia, la mitica copertina dei Time dedicata a chi? Alla mitica Michelle. Il titolo è Meaning of Michelle, The Meaning of Michelle, il significato di Michelle, un bellissimo primo piano, e all'interno c'è tutta un'intervista lunga a Michelle che spiega insomma come sono stati questi i suoi primi 100 giorni. Tutto sommato sembra divertirsi. Quello che la preoccupa di più, dice, così fa molto, è molto romantico, è di vedere che invece suo marito non può staccare mai, che le preoccupazioni nella testa del marito ci sono sempre e che lei non può fare sostanzialmente niente per alleggerirgliele, però si rende anche conto che per ora lui tutto questo sembra sopportarlo benissimo, quindi lei gli sta al fianco e cerca di fare la sua parte. Grazie Giulia Crivelli, ci risentiamo con te naturalmente domani per la rassegna stampa internazionale. Vi ricordiamo che oggi l'appuntamento con la viabilità non va in onda a causa di un'assemblea sindacale della redazione di Strade in Diretta. E restiamo all'estero, ma andiamo in Corea, dove oggi c'è stato un nuovo lancio di missili. La Corea del Nord è ormai in piena escalation militare. Dopo il test nucleare sotterraneo e il lancio di 3 missili a corda gittata condotti ieri, nel pomeriggio di oggi, circa alle 8 del mattino, ora italiana, il regime di Pyongyang ha lanciato 2 nuovi razzi, un missile antiaereo e un missile antinave capaci di una gittata di circa 130 km. Il messaggio insomma sembra chiaro, siamo in possesso della tecnologia nucleare e siamo in grado di usarla. E mentre dalla comunità internazionale, compreso l'unico alleato, la Cina, è arrivata una condanna unanime, gli analisti si interrogano sul significato di queste nuove dimostrazioni di forza. Un elemento interno è quello della successione nella leadership. Dopo l'ictus che ha colpito nell'agosto scorso il padrone assoluto del paese Kim Jong-il, le elite nordcoreane si starebbero disputando il controllo con la fazione militare in una posizione di netto vantaggio. Il programma nucleare inoltre può servire al regime più isolato del mondo, tanto per ottenere nuove concessioni economiche mantenendo una posizione di forza verso Corea del Sud, Sud e Stati Uniti quanto come spot per tutti gli stati che volessero acquistare le sue tecnologie militari. La Corea del Sud ha dichiarato che potrebbe collaborare con gli americani per intercettare navi nordcoreane sospettate di trasportare ordigni di distruzione di massa, una posizione che Pyongyang interpreterebbe a tutti gli effetti come una dichiarazione di guerra. Antonio Italia, GR24, Il Sole 24 Ore, Pechino. Parliamo ora di pubblicità. Due spot nella polemica sono quelli di un'automobile e di una bibita. In principio la famiglia era così. Giulia, forse Linda ha il mal d'asino. Magari una buona colazione. Eh sì, i mulini erano bianchi e tutti molto felici, ma anche le famiglie moderne sembrano piuttosto allegre. Lui è Daniele, mio figlio. È nato dal matrimonio con Elena, la mia prima moglie. Poi riparto e vado a prendere i gemelli Marco e Luca, gli altri due miei figli, cioè di mia moglie, la mia nuova moglie. Li prendo e riparto subito a prendere la mia terza figlia, la piccola Sofia, e la figlia della mia attuale moglie. Poi prendo Mattia, che ho appena saputo che è mio figlio. Insieme torniamo tutti a casa. Lo spot di Renault ha fatto gridare allo scandalo l'arcivescovo di Bologna, il cardinale Carlo Caffarra, che accusa... esalta la poligamia. Eppure in pubblicità le famiglie allargate, anche se non così tanto larghe, erano già entrate da qualche stagione anche in Italia. Prendi un mezzogiorno di sole. Prendi tuo figlio che vuole sembrare più grande. Aggiungi Mario che vuole sposarti e suo figlio che vuole conoscerti. Ma non sono solo le famiglie più fantasiose a creare la polemica. Ad aprire la battaglia contro gli spot sono stati commercianti e istituzioni contro la piccola Giulia anticrisi. Mi chiamo Giulia e vivo a Pisa. Ultimamente tutti parlano di crisi. Io sono ottimista, forse perché a me bastano le cose semplici. Lei non vuole Risorto Ristoranti, che a differenza della più famosa bevanda gassata al mondo non sono indispensabili, si intuisce. Gli esercenti tuonano, ci provoca un danno economico enorme. Meglio prenderla con ironia, come comincia a fare la rete. Mi chiamo Giulia e vivo a Pisa, abbasso il Livorno. Ultimamente tutti parlano di crisi, ma io sono ottimista. Tanto mi pa è ricco che fa schifo al maiale. Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore. E ora parliamo di letterature, Festival Internazionale di Roma, che inizia oggi, dedicato agli scrittori italiani e stranieri. Come sempre, l'appuntamento è alla Basilica di Massenzio. 10 serate per l'evento letterario internazionale che anche quest'anno la capitale ospita nella Basilica di Massenzio al Foro Romano. 16 narratori e 7 poeti per presentare testi e poesie inedite, leggerli in pubblico e per la prima volta anche 2 scienziati. Tra i primi autori ospiti la scrittrice Margaret Mazzantini, che con il romanzo Non ti muovere ha venduto quasi 2 milioni di copie, e l'americano Andrew Sean Greer, che nel 2008 ha scalato le classifiche con il bestseller Storia di un matrimonio. Molti giallisti presenti, dalla Svezia, dove da un paio d'anni si registra un successo crescente per questo genere letterario, arrivano sia Lindquist, noto come lo Stephen King svedese, e Bjorn Larsson, che ha raggiunto la fama con Il cerchio celtico. Dagli Stati Uniti arriva uno dei maggiori autori di legal thriller come John Grisham, ospite della rassegna romana anche il camilleri greco Petros Markaris. Terra Luna, un'infinita risonanza, è invece il tema conduttore di questa 8ª edizione, un tema che si sviluppa attraverso un lungo racconto a più voci sul rapporto tra la Terra e il suo satellite. L'ideatore e direttore artistico del Festival Letterature e responsabile della Casa delle Letterature di Roma, Maria Ida Gaeta. A 40 anni dal passo polveroso degli astronauti sulla Luna, il festival parla di Luna e invita tutti a guardare la Luna attraverso le lenti delle letterature del mondo, in qualche modo. La Luna è anche l'astro da sé della Terra e quindi poi è carica di possibili significati. La sentiamo vicina ma nello stesso tempo irraggiungibile. E, insomma, è fonte di tantissime idee. Una mostra biofotografica renderà infine omaggio allo scrittore e sceneggiatore italiano Luigi Malerba, scomparso di recente. Adriana Fracchia, GR24, Il Sole 24 Ore. GR Extra Large, un rapido riepilogo delle principali notizie della giornata. La crisi colpisce soprattutto le persone fra i 35 e i 54 anni, dice l'Istat nel suo rapporto annuale. E per la crisi il governo ha fatto la sua parte, ma bisogna fare di più, dicono i vescovi che parlano di crisi morale e richiamano tutti alla responsabilità. Ore decisive per l'acquisizione di Opel, si è concluso il colloquio tra Marchionne e la Merkel, domani la decisione di Berlino. Mentana torni a condurre Matrix, il giudice del lavoro ordina il reintegro del giornalista a Canale 5. Nuova sfida della Corea del